5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello, Radio Risacca. Ecco per voi la rubrica meno compresa di tutta la radio. I Speak English. C'è dello humor English in tutto ciò. Infatti, in questa rubrica si ascolta solo musica British e si imparano cose utili per viaggiare. Viaggiare è importante. I Speak English. Modi di dire per gli italiani all'estero. And for the others to better understand Italy. Il detto del giorno. Il detto del giorno. Il detto del giorno. Today way to say. Pisciare dalle ginocchia. Pisciare dalle ginocchia. To piss from the knees. To pee from the knees. Mi hai preso forse per uno strano? Che fa cose strane e prive di senso. Con tale affermazione, si vuole dichiarare la propria avversità nei confronti di un suggerimento che riteniamo impossibile, se non alquanto bizzarro. Thank you.